ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Ottava puntata. Avvolto in una coperta che gli conferiva solennità, Enrico dirigeva le operazioni. «Ancora un giro», disse, e i cugini si misero al lavoro per obbedirgli. Pezzetti di spago congiunti con nodi disparati e poi strisce di vecchie stoffe, una federa strappata, uno strofinaccio, per legare più fermamente Enzo all'alberello di limoni che cresceva stentato in un vaso sul terrazzo di via Cavour. Con un bavaglio stretto sulla bocca, Enzo accetta la prigionia senza ribellarsi. Anzi, controlla anche lui l'efficacia dei nodi e fa gli occhiacci a Lea perché non si azzardi a lasciargli scampo. Una danza di guerra, poi Enrico guida via gli altri. La congiura della plebe è fallita. Enzo dovrà pagare in solitudine, con quell'umiliazione, il fio delle sue colpe. Per 3 anni, cioè per 3 tornate della clessidra di nonno Pellegrino. Enzo da solo saggia la libertà del collo, delle gambe, dei piedi nudi. Facendo forza sulle corde che gli segano la pelle, raggiunge con un piede un mucchietto di terra polverosa, se la avvicina, se la sparge intorno. Non muto. La scritta ai suoi piedi è tracciata con approssimazione e fatica, ma leggibile. Gli occhi di Enzo sorridono sopra il bavaglio. Ha vinto lui. Il potere della sua parola è intatto. Con i soldi stampati nei regni su certi pezzettini di carta, Ada Ascarelli comperò dai cugini alcuni tesori. Un nettapenne a forma di uccello, un lapis temperato dalle due parti, un segnalibro. Poi i soldi finirono quando le cose che avrebbe voluto acquistare erano ancora tante. Ada ci pensò su, si disse: «Ma che soldi? Questa è soltanto carta straccia. Carta per carta, tanto vale che chieda un prestito». La direzione della Banca dei Regni si riunì, discusse, deliberò. Il prestito venne accordato come da verbale. Non ricoprendo incarichi pubblici, lo Stato era sì democratico, ma le cariche ruotavano relativamente e comunque fra maschi. E disponendo perciò di molto tempo per pensare e fare, Ada continuò a comprare. Sempre con quella sua interna tranquillità che tanto di carta si trattava e non di oro. Acquistò da Enrico un fuciletto di legno cui lui era stato assai affezionato. Avanzò offerte doviziose per la Murrina Mappamondo, per la quale Mimmo però non volle mai nemmeno trattare. Ebbe invece la collana da Lea, cui le chincaglierie non interessavano già più. 2 cassetti pieni, 2 cassetti ricolmi di tesori, penne e lapis e gessetti e campanelline, una ricchezza. Poi la scuola finì, i cugini si dispersero nelle vacanze. A settembre Enrico si scoprì altri interessi. Enzo assunse il comando, ma il gioco oramai era consumato. Nessuno andò più a rivangare parentele inventate o conti in sospeso. Così Ada in quei mesi imparò le regole base della finanza. Perché comprare una collana o una nave, un fucile o uno stato, alla fine non è granché diverso. Con gli anni avrebbe capito anche un'altra cosa, che se nel mondo degli adulti le vacanze difficilmente ripianano i debiti, le guerre a volte sì. Dalinda aveva detto con tono fra il preoccupato e il gongolante: «Artargà el Melek. Hanno ammazzato il re». Ed Ermelinda subito l'aveva rimproverata per il gergo. In casa si continuava a badar bene che i ragazzi del giudaico romanesco non assumessero neanche la calata. Dopo, per le strade, i manifesti urlavano pomposamente retorici da ogni muro. Anche in famiglia i ragazzi sentivano discutere della guerra, ma con argomenti che suonavano accademici, lontani. Così, senza remore, si entusiasmarono per il gioco prezioso avuto in prestito da Manlio, un compagno di scuola. un esercito di soldatini di piombo che certe pallottoline di cartapesta sparate dal cannone ad elastico facevano cadere giù, se si mirava bene. Fu un lungo pomeriggio di battaglie, ricco di contrasti contenuti nei limiti del giusto, interrotto soltanto dalla merenda di Panzanella. Il gioco ferveva ancora all'avvicinarsi della cena. I maschi continuavano ad appallottolare carta e anche Lea e Ada avevano i loro impegni, Croce Rossina l'una e l'altra indaffarata in traffici di vettovaglie nelle retrovie. Enzo, naturalmente, era il generale in capo, che dall'alto della scaletta in legno della libreria dava ordini e ordiva strategie. C'era in cucina l'acciottolio delle stoviglie. Odori e vapori si allargavano piano nella casa. Enrico, fuori dai giochi ormai e impegnato in certi suoi vagabondaggi di liceale, apparve in salotto come arrivato in volo. Il pomo d'Adamo pieno di eccitazione. «Siamo in guerra», annunciò sventolando il giornale. I ragazzi sospesi nei loro gesti, incerti fra gioco e verità. Le donne strette attorno ad Enrico, a strapparsi il giornale dalle mani, a commentare. Vennero riposti i giochi, come ogni sera le serve presero ad apparecchiare. I gesti di sempre, tutto normale, tutto lontano. Madalinda, tornandosene verso la cucina, lungo il corridoio intonò piano una canzone lamentosa. «E io non canto, e io non ballo». E via via verso i fornelli la sua voce si alzava di tono e volume. «Perché il mio amore sta a fa' il soldà». Finimola si unì a lei nel controcanto e le due voci si stagliavano aspre sul brusio del salotto. «E chissà quando ritornerà». Le parole si fecero nitide e gli acuti graffiavano, una litania che Enrico interruppe abbracciando le due donne, costringendole a un giro tondo, gridando con voce allegra che questa sarà una bella guerra, l'ultima guerra, la guerra che sconfiggerà tutte le guerre, la guerra che anche lui, Enrico, combatterà. «Sei troppo piccolo», lo irridono le donne, scansandolo senza violenza per badare alle pignatte, alle vivande da allestire. Enrico tutto rabboiato, l'eccitazione di prima tramutata in pallore irato. Le labbra gli tremano, neanche fosse un bambino lì lì per piangere, e per questo gli tremano di più. Alfonso dà ordini secchi, fa spazio a quel suo figlio umiliato, gli dà il tempo di riprendere il controllo di sé. «Quando sarà il momento farai quel che riterrai giusto», gli garantisce. La voce è quieta, Enrico è rinfrancato dalla sua apparente pace. Di quello che trema dentro a lei, nessuno pensa di chiedere. Una giornata di febbraio uggiosa. Al pianoforte Ermelinda suona musiche lamentose, Schumann e Chopin. Per non urtarsi con lei, con la sua suscettibilità sempre un po' troppo accesa, Alfonso non le chiede di smettere o di coinvolgere i ragazzi in qualche coro più vivace. Enrico, che da qualche tempo è stato ammesso ai misteri del microscopio paterno, si trafigge il dito con uno spillo ben disinfettato. Spalma il sangue su di un vetrino e poi lo guarda contro luce prima di metterlo in posizione, dandosi un'aria di importanza. «Siamo nati per soffrire», commenta. È la frase che ha adottato come ironico blasone, un po' citando Croce, la filosofia come ausilio per imparare a soffrire più in alto, e un po' per burlarsi dei cattolici. Ma poca è l'ironia nel suo diario, che i fratelli sono stati pregati di non leggere più. Adesso io non posso essere allegro come lo sono i miei compagni. I giochi non mi bastano più. Ancora non ho nulla che me li rimpiazzi. Ho un caos di idee, di sensazioni, di pensieri nuovi che non riesco ad ordinare. Non ho ancora nessuno scopo e nessuna meta prefissa se non questa. In alto. Piccolo, sullo sfondo lucido di un gran tavolo massiccio di noce, Enzo sta scrivendo un poema in versi. Questa è la sua passione, al momento. E i fratelli gli riconoscono talento e abilità. Mimmo ha il suo turno nel rifugio di concentrazione, la cassapanca color pece che prima era dei giochi. Il coperchio socchiuso lascia filtrare l'aria, una candela illumina riga per riga il libro che sta leggendo. Alfonsa incrocia i lunghi punti di un rammendo, un lavoro che detesta e al quale non immaginerebbe di sottrarsi. Nella grande casa addolcita dalla semioscurità del pomeriggio si intrecciano rumori raccolti, operosi. La vita scorre su binari noti. La pioggia che riga i vetri fa sentire al riparo. Una porta sbatte forte. Ermelinda, irritata, smette di suonare. Finimola, del bambino nato da lei più niente si è detto, è a balia in qualche salubre luogo, anche grazie ai denari della casa, e si sa che domandarne notizia non va bene. Finimola avanza nel corridoio quasi di corsa. Dietro di lei Settimio è scarmigliato, la camicia in disordine e i pomelli troppo accesi. Un allarme passa negli occhi delle donne. Tenere al riparo i ragazzi da cose non adatte, da cose che non devono sapere. Ermelinda si lancia in un valzer indiavolato, preme forte sul pedale e le note coprono le parole. Alfonsa si avvicina a Settimio, gli prende le mani e le stringe forte. Con un'occhiata ferma lo costringe all'obbedienza. Vinto, muto, stretto nelle spalle, Settimio piange. Grandi lacrime tonde scivolano giù per la sua brutta faccia glabra. Ha il mento pieno di bava. Finimola vorrebbe asciugarlo, ma Alfonsa la allontana, senza rimproveri, perché tutti sanno qual è la ragione, soltanto per opportunità. Alfonso lo prende per mano, lo porta via e poi gli chiude a chiave la porta. Il cuore le fa male, ma non ha scelta. Non può fare concessioni. Deve chiudere altre porte perché quel dolore, quella vergogna scompaiano, nascoste nelle viscere riparatrici della casa. Più tardi consegnerà la chiave di quella porta a Lello o ad Angelo perché provvedano a condurlo con sé in una di quelle case. Alfonsa si ostina a cancellarne lo scopo, benché le periodiche uscite comuni dei fratelli la irritino notevolmente, dove la castità obbligata di Settimio finalmente troverà una pace. Ad altre più radicali soluzioni Alfonsa finora si è opposta, offrendo come scudo la propria pazienza. Ma adesso che i ragazzi stanno crescendo, ora che Finimola... Settimio, nella stanza più remota della casa, prende a calci il mobilio. Il pianoforte non arriva a coprire i rumori, le urla. Enrico ed Enzo hanno abbandonato le loro occupazioni, la guardano. Alfonsa riprende a cucire e non c'è niente da chiedere né da commentare. Solo stasera, nella stanza resa sicura dall'assenza di luci e di adulti, i ragazzi si interrogheranno su Settimio, immagineranno, faranno congetture sulle assenze di mesi che chiamano viaggi, su quel destino chiuso che sentono sopra di lui. Ora obbedienti ritornano al microscopio, alle rime baciate. Mimmo, nella cassapanca, ha chiuso il coperchio e sperimenta il rarefarsi dell'aria. Per Xenia, la guerra scoppiò prima, in un grande affare di volantini, di articoli per giornali e riviste. Le riunioni duravano fino a tardi e Xeniuszka si addormentava fra voci alte e infervorate. I controlli dei carabinieri, più che in precedenza, punteggiavano le giornate, assillanti e vessatori. Guardavano alla loro casa come a un covo di malfattori. Xenia sembrava quasi gloriarsene e sua figlia si vergognava. Xeniuszka a scuola si riparava dietro il cognome tedesco per essere meno nemica. In casa invece sua madre ricapitolava senza requie tutte le radici che le facevano estranee. Esaltava il patriottismo rivoluzionario russo e la lotta contro gli imperi centrali. Citava l'affare Dreyfus e le nequizie dello zar agitando uno scenario internazionale incompatibile con la geografia dei libri di testo. Romanticherie, pensava Xeniuszka, e cercava di non sentire. Tagliati i lunghi riccioli dell'ortodossia, il timido Yakov si trasformava in soldato e parlava di arruolarsi con gli inglesi. Gli altri inquilini riscoprivano d'un tratto nazionalismi mai prima evocati, un disordine colossale. Xeniuszka se ne difendeva come poteva. Mai, come in quel periodo, i suoi quaderni furono ordinati e costellati di bei voti. Eppure tante assenze, tante lezioni mancate. Quando non sapeva a chi affidare sua figlia, Xenia la portava con sé. Forse le compagne le avrebbero invidiato quei viaggi, ma Xeniuszka si guardava bene dal parlarne. Fingeva salute fragile e parenti lontani da accudire. A Bogliasco la ragazzina si innamorò di un cappello. A Nizza si fermò incantata ad ascoltare un'orchestrina che suonava all'aperto. A Peira Cava anche Xenia trovò il tempo per una fotografia insieme, nel parco. Ma di tante altre città Xeniuszka ricordò poi soltanto stanze disadorne, ingombre di carte e di gente e l'odore delle stazioni. La sera, di fronte all'eterna tazza di caffè e latte, madre e figlia chiuse ciascuna nel proprio silenzio, distratto o ostile, ciascuna occupata di sé. Quando Xenia, prima di andare a letto, andava a rimboccarle le coperte, Xeniuszka faceva finta di dormire e con il braccio alto sulla fronte impediva che sua madre la baciasse. Poi le notizie della rivoluzione e Xeniuszka sperò che sua madre finalmente si quietasse. Il grande obiettivo era stato raggiunto. Ora Xenia sarebbe stata la madre che aveva sognato, una madre come tutte. E invece i viaggi a Parigi e in altri più misteriosi luoghi si infittirono. Xenia, tutta presa dalle lotte nuove e aspre che opponevano social rivoluzionari e bolscevichi, in pena per Savinkov arruolato nelle milizie di Kerensky, dolente per tutti quegli ebrei senza patria né certezze, sua madre aveva sempre qualche tragedia lontana per cui soffrire, pensava Xeniuszka, e per i problemi che le si aggrovigliavano attorno non aveva mai tempo. Dentro ogni difficoltà e preoccupazione ed esaltazione c'era per Xenia una speranza aspra, di cui mai faceva cenno. Tornare a casa, fra i suoi. E invece affitta camere a vita. Esule sradicata, rivoluzionaria senza più una rivoluzione da poter immaginare. Senza più voglia di dirsi cittadina del mondo, la malattia fu il modo che Xenia trovò per esentarsi da una delusione che le era troppo duro stavolta tollerare. Mesi di febbri, dolori, malattie diverse concatenate dall'assenza di energia, di voglia di andare avanti. Con gran diligenza Xeniuszka accudì sua madre, si occupò della casa senza che gli studi ne soffrissero, riscosse le rette dei pensionanti e le amministrò con giudizio. Quando Xenia poté lasciare il letto, la sconfitta era nelle sue gambe deboli, nel bisogno che aveva di sua figlia per ogni gesto della sopravvivenza. Xeniuszka scelse per lei cibi, orari, compagnie e pensò di aver vinto. Perché questa sera è diversa dalle altre sere? Compreso dell'importanza del proprio ruolo, Mimmo scacciò il ricciolino tirabaci che, resistente ad ogni ravviatura, gli scendeva sulla tempia. Poi stese le braccia ben dritte lungo il corpo e così attese, sull'attenti. A capotavola Pellegrino fece per rispondergli, ma la fatica del respirare lo dissuase. Con un gesto sfinito passò la parola ad Angelo, che si affrettò a coprire quel vuoto doloroso della cerimonia e del tessuto familiare. Grandi e piccoli cantarono in coro a voce alta e la tosse di Pellegrino sembrò così quasi soltanto un contrappunto, un sottofondo appena inquietante. Poi mangiarono in fretta. Pellegrino nient'altro che la sua tisana, con il miele che Alfonsa faceva venire per lui dal paese toscano di Finimola, perché nessuno si sentiva in vena di festeggiamenti. Con un gesto Pellegrino chiamò a sé i nipoti. Gli si allinearono davanti, schierati, e intorno c'era un odore di morte, forte, che metteva addosso a ciascuno come una maschera, il viso che avrebbero avuto fra 20 anni. Il nonno li accarezzò uno ad uno. La sofferenza della sua mano poteva sembrare di malattia e vecchiaia. I suoi occhi opachi si chiusero di paura. Avrebbe voluto poterli pensare commercianti o medici o ingegneri, padri di molti figli da crescere nel benessere e nell'agio. Ma quella salvezza per loro non era immaginabile. Pellegrino lo sapeva bene, perché anche lui aveva lavorato a farli com'erano. Però la morte è così tremenda. Pellegrino per sé poteva accettarla, ma non per loro, ancora così pieni di morbidezze e teneri e ridenti. I ragazzi attendevano, a fatica rispettosi e fermi. Pellegrino non poteva dire, non poteva cambiare le carte già distribuite, era comunque troppo tardi. La sua mano si alzò per la benedizione. Le parole giuste non riuscivano a venirgli alla mente e qualcuno per aiutarlo gli porse un Talmud. Lui aprì a caso, cercò una risposta di speranza, una possibilità. Sotto gli occhi gli vennero soltanto parole di sacrificio e di eroismo, di abnegazione e dovere. Tutti attenti a quella benedizione, l'attesa già percorsa da imbarazzo, seguendo le righe con il dito che tremava forte, finalmente Pellegrino si risolse a leggere: «Voi siete forti e belli». La tosse interruppe la citazione. Sembrò non poter riprendere, ma con un grande sforzo vi riuscì. Alzò gli occhi a guardarli. La luce batteva sui capelli dei ragazzi, facendoli da bruni che erano biondi. «Come un mannello di grano», mormorò. Poi, tornando a leggere: «Non entrate tutti insieme nella pubblica piazza e non fermatevi insieme in un sol luogo, sì che il malocchio non abbia potere su di voi». I ragazzi ascoltarono il nonno con pensieri giovani, preoccupati soltanto della sua malattia. Curva e contratta, come per un dolore fisico da tenere sotto controllo, Alfonsa si avvicinò ai figli. «Andate a giocare», disse piano, e li spinse via. Le donne cominciarono a sparecchiare.